Radio 24 Reportage. Tobin Tax all'italiana di Deborah Rosciani. È stato detto più volte. La versione europea e moderna della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, che entrerà in vigore in Italia il 1 marzo, non ha proprio nulla a che vedere con l'impostazione originaria pensata dal suo estensore, James Tobin, premio Nobel per l'economia nel 1981 e consigliere economico molti anni prima di John Kennedy. Quella versione, lanciata nel periodo dello scandalo Watergate, che nel 1974 costò le dimissioni al presidente americano Richard Nixon, aveva un altro obiettivo e poco c'entrava con la guerra alla speculazione finanziaria. 40 anni fa la missione era stabilizzare il mercato valutario e reperire risorse per combattere la povertà nel mondo. Quello che si vuole combattere oggi, dopo la crisi esplosa nel 2008 con la bancarotta del colosso bancario americano Lehman Brothers, è ben altro e non ha nulla a che spartire con gli affamati del Burkina Faso o delle favelas brasiliane. È la speculazione che amplifica a dismisura gli effetti di ogni singola operazione finanziaria, dalle compravendite di azioni e titoli di Stato fino alle cartolarizzazioni più ardite e complesse. Ma c'è anche l'obiettivo di fare cassa. Lo Stato italiano stima un introito di 1 miliardo di euro l'anno. Ma come funzionerà? Quali perplessità suscita fra gli addetti ai lavori, trader professionali o fai da te? Quali novità ci sono da Bruxelles? Come si stanno preparando gli intermediari finanziari? Abbiamo raccolto alcune considerazioni a Bergamo nel corso del 19° Forex, evento annuale degli operatori della finanza. Uno dei principali timori è che venga penalizzata l'attività della borsa italiana. Pietro Poletto, responsabile mercato obbligazionario della borsa italiana. Non è che lo temiamo, diciamo sicuramente che quello che è stato deciso a livello europeo evidentemente è un'iniziativa che va valutata molto attentamente, nella misura in cui evidentemente queste iniziative, se non sono adottate da tutti i paesi, da tutti i mercati, evidentemente possono creare degli arbitraggi fiscali e regolamentari, e questa è la nostra preoccupazione, per cui la preoccupazione è che ci possono essere dei movimenti della liquidità dei mercati che possono andare verso quelle piazze dove questa tassazione non ci sarà. Peraltro noi stiamo lavorando assiduamente con la task force del Ministero proprio per cercare di mitigare quelli che potrebbero essere degli effetti e le prime preoccupazioni che a livello di sistema sono state sollevate. E quindi ci può dire in maniera più dettagliata su quali aspetti state ancora discutendo? È evidente che nel momento che ormai la decisione è stata presa, è nostro interesse ovviamente per il Paese, per salvaguardare la piazza finanziaria italiana, cercare di agevolare anche gli intermediari poi nell'applicazione della stessa. Il 22 gennaio scorso l'Ecofin ha autorizzato 11 Paesi a procedere nella cooperazione rafforzata per introdurre la Tobin Tax. L'obiettivo della Commissione europea è far entrare in vigore la tassa sulle transazioni finanziarie negli 11 Paesi aderenti a questo accordo dal 1 gennaio 2014. Oltre all'Italia si tratta di Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Ma si vorrebbe procedere verso un rafforzamento ulteriore e la Commissione europea sta proponendo una nuova direttiva, poco gradita al governo italiano, con una versione allargata della Tobin Tax che non si applicherà solo alle banche residenti nei Paesi membri che hanno deciso di perseguire questa strada, ma anche a tutti gli strumenti finanziari emessi negli Stati coinvolti, compresi i titoli di Stato. Dovrebbe valere cioè il principio di emissione dello strumento finanziario. Ma un conto sono le volontà politiche espresse a Bruxelles, un conto sono le modalità con cui i singoli paesi recepiscono. Come sostiene Gianluca Garbi, già consulente del Ministero del Tesoro e capo del segmento dei titoli di Stato della Borsa Italiana, oggi amministratore delegato di Banca Sistema. Secondo me, dal punto di vista di tassazione, la Tobin Tax di per sé, io non so se sia giusta o sbagliata. Il vero problema è se tutti l'applicheranno all'interno dell'Unione Europea oppure se ci saranno alcuni paesi che l'applicheranno e altri no, perché il problema è la simmetria. L'esperienza, quando ero al Ministero del Tesoro, nel 96, se non ricordo male, noi abolimmo l'imposta di bollo, quindi fissato bollato, proprio per evitare che a un certo punto le transazioni venivano veicolate da soggetti residenti in principal modo a Londra, proprio per evitare il fissato bollato, che era una cosa, un non senso. Veniva fatto tutto, veniva imposta una tassazione, poi la tassazione la si evitava semplicemente dislocando le persone. La Tobin Tax avrà lo stesso effetto oggi come concepita, a meno che tutti i paesi, compresa l'Inghilterra, non decideranno di applicarla. Quindi a un certo punto le banche, gli intermediari o magari intermediari anche più piccoli faranno da tramite per bypassare il problema della Tobin Tax e quindi transiteranno in paesi, io immagino l'Inghilterra in primis, per evitare la tassazione. Sulla stessa linea Luciano Turba, responsabile funding istituzionale di UbiBanca. Sappiamo che la Gran Bretagna non ci vuole aderire e quindi c'è il rischio in un mercato globalizzato che loro facciano la parte del leone a scapito degli altri mercati e mangiando quote di mercato ad altri sistemi. Una volta era più difficile lavorare con una banca londinese, adesso nel 2013 con un mercato telematico al 100% è estremamente più facile. Come sa, negli ultimi giorni si è ravvivata la discussione sulla necessità di separare la banca commerciale dall'attività di banca di investimento. Secondo lei, se questa separazione ci fosse già nel nostro paese, se fosse molto netta, questo problema, anche tutta la discussione intorno all'introduzione della Tobin Tax, verrebbe superata più facilmente? Ma io a questo non le so rispondere. Diciamo che questa famosa Glass-Steagall che è tornata di moda, quindi il separare tendenzialmente al massimo le banche investimento dalle banche commerciali, sul mercato italiano ha sicuramente molto meno impatto, perché le banche italiane, salvo rarissimi casi, tendenzialmente sono delle banche retail. In Italia la tassa, introdotta con la legge 228 del 24 dicembre 2012, colpisce i gruppi quotati con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, mentre saranno esenti le capitalizzazioni inferiori e gli scambi intraday, cioè quelli aperti e chiusi in giornata. Francesco Polimeni, responsabile clientela istituzionale di CreaBanca. La Tobin Tax è tra gli operatori universalmente riconosciuta come una misura concepita male. È perché è nata anche in una fase storicamente e politicamente problematica? Sicuramente la sua affermazione è corretta, perché se andiamo a vedere tra i leader che hanno avuto difficoltà a dover rinnovare, vediamo in Spagna c'è stato un cambiamento, così come in Francia e Olanda, così adesso a breve avremo ulteriori elezioni politiche in Italia e in Germania. Pertanto sicuramente questa tassa è l'unica tra quelle che viene riconosciuta dall'opinione pubblica come una tassa salutare dopo i disastri che sono arrivati dal punto di vista finanziario. Il problema che forse va identificato è legato al fatto che proprio coloro che l'hanno causato questo disastro non la applicano. Vediamo sia in America che in Inghilterra, ma in generale un po' tutti i paesi asiatici, così come la stragrande maggioranza anche dell'Europa, che questo tipo di tassazione non viene applicata. Per cui è un po' come la centrale nucleare che abbiamo dietro l'angolo e noi in Italia non la possediamo, ma in realtà ne paghiamo un po' tutti le conseguenze. C'è chi teme un effetto Svezia. Stoccolma introdusse la Tobin Tax nel 72 partendo con un'aliquota dello 0,5% sulle transazioni azionarie e nell'86 venne estesa agli altri strumenti finanziari, con il risultato che le operazioni crollarono del 70% e così che venne abolita nel 92. La Germania ha rinviato tutto al 2016, la Francia pensa di modificarla. L'attuale formulazione non combatte la speculazione e non produrrà il gettito previsto, così la pensa Stefano Sardelli, direttore generale di Investbanca. Alla fine andrà a colpire l'investitore che compra oggi delle azioni per tenerle in portafoglio, mentre invece la speculazione, che sembrava appunto il grande spauracchio di questo mercato, potrà continuare a lavorare tranquillamente. E andrà a colpire le società con grande capitalizzazione dei loro titoli e quindi dall'altra parte escludendo tutta l'operatività intraday e una parte dei derivati. Ma d'altra parte il tema è quello di confrontarci un attimo con altri paesi che l'hanno già applicata, in questo caso la Francia. E la Francia sicuramente l'ha applicata, ma aveva delle attese molto più ambiziose in termini di gettito, che hanno fatto vedere poi alla prima resa dei conti che effettivamente non è stato. Il gettito è molto modesto in Francia e io credo che lo sarà anche molto modesto in Italia, perché rispetto alle previsioni di oltre un miliardo saremo ben sotto a questo livello. Gli operatori più perplessi sulla nuova imposta ricordano anche come questa sia l'ennesima che negli ultimi mesi ha impattato nel panorama degli strumenti finanziari. Ugo Borgheresi, direttore Dipartimento Finanza di Banca Etruria. Dal 1 gennaio dello scorso anno le rendite finanziarie sono state portate dal 12,50 al 20%, gravando su titoli azionari, fondi e le obbligazioni societarie, esclusi solo i titoli di Stato. Non dimentichiamo che un'altra forma di imposizione minor beneficio fiscale riviene dal fatto che le minusvalenze, e noi sappiamo che di questi tempi di mercati così di poca soddisfazione, molti sono i nostri risparmiatori che hanno delle minusvalenze in portafoglio. Queste minusvalenze, cioè titoli, investimenti che si sono deprezzati, esatto, che hanno minor valore ovviamente. Esattamente, queste perdite diciamo che dallo scorso anno possono essere portate in deduzione nei 4 anni successivi a compensazione di utili futuri solo nella misura del 62,5% rispetto al 100% precedente. L'ultima poi è stata la mini patrimoniale, che ha gravato su tutti i portatori di titoli, di fondi, di obbligazioni, quindi in base agli investimenti di ciascuno. Tutto negativo dunque? No, cercando di cogliere il bicchiere mezzo pieno, Borgheresi si spinge a pensare che la Tobin possa anche favorire l'investimento nelle piccole capitalizzazioni esenti dall'imposta. Il senso c'è ed è un auspicio e noi tutti operatori lo confidiamo, cioè abbiamo bisogno di allargare l'interesse sui nostri titoli. Ad oggi purtroppo con l'impoverimento anche delle capitalizzazioni di borsa nel mercato, nell'MTA di Milano, sono solo 78-79 i titoli che superano il requisito dei 500 milioni di market cap, cioè di capitalizzazione. Speriamo che negli interessi degli operatori si possa spostare l'attenzione anche su quei titoli di minor capitalizzazione. Questo è sicuramente un elemento che vogliamo vedere positivo in una tassa che comunque di positivo per definizione non può avere nelle tasche del risparmiatore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.